Sveglia l'1.35, casco sfatto giù dal letto. Il più lo salza presto e cerca l'abito perfetto per la sera. Già c'è nell'aria l'atmosfera del sabato di merda che costringe la città intera a muoversi verso i soliti postacci. Appuntamento in piazza con i soliti poveracci, convinti d'essere belli più che mai. Spendi gli euro di papà, ma adesso addosso tu che c'hai? Cappellino collanone, grossi orecchini gay. Io magliette e pantalone che acquisto coi soldi miei. E vai, di pomeriggio ti esibisci, l'immagine di te è uno standard che costruisci. Oh, so le 10 tocca andare, saltiamo tutti in macchina e di corsa a ballare. Ascoltami, cerca di capire dove sbagli e sveglia, svegliati. Apri gli occhi per cambiare, non seguire più gli altri. Wow, guarda quello quanto è buono, si avvicina, fai passetti, o se c'è pure un bel culo. Bella, ne che c'hai una gardina, non ti preoccupare, tuba non fumo, lo sai che sei carina. Ecco fatto, divertimento assicurato, una pasticca, una paccata e musica di basso grado. C'è il vocalist, se lo so appena inculato. Trans, lesbiche, gente in uno stato pietoso. Ragazze brutte ed anche belle, però se t'avvicini senti il puzzo delle ascelle. Vomiti, per respirare sgomiti, alle 4 vanno a casa, ridotti e soprammobili. E sabato prossimo sarà lo stesso, rinchiuso in un posto che più che disco è un cesso. Ascoltami, cerca di capire dove sbagli e sveglia, svegliati. Apri gli occhi per cambiare, non seguire più gli altri. Missione compiuta, sta cogliona l'ha bevuta. O c'hai la fidanzata, sottomessa e muta. Lei crede nell'amore, ma ha sbagliato posto. Con gente come te che vuole sesso ad ogni costo. Resto perplesso dalla situazione. Donnette costrette ad apprezzare un coglione, sperando in un futuro migliore. Peccato che domenica sono già sole usate, accantonate, sputtanate. Dopo una settimana con le amiche sulle strade a rimorchiare. Per voi la vita è sempre uguale, cambiamenti attinenti al vostro status sociale imitate. La società impone stazioni, non è questo che volete? Svegliatevi, coglioni! Se Piazzi sta qua, Maso, Gino, tutti gli altri, la gente intorno si sfà. WZ Crew intanto produce, fa. Sì, bella.